Sergio fa, si sono sentite, dai, ben entrato. Uff, sono demotivato, guarda, non, periodo che non va, Giulio, vediamo se ha ripreso, l'avevano chiamato col, con quello squillo interno. Giulio, sì. Dai Gianni, tu. Eia, Marco, ho cambiato quella roba. Eia, adesso lo apro, vediamo un po', perché è buio lo smartphone. Ah, luminosità se la regola lui, invece la voglio, come dico io. Un attimino. Hai male, please. Copiato Gianni, una cosina in più, vediamo, valore aggiunto, dai, valore tra virgolette. E cos'è fatto? No, nulla, solite cose, solite apparecchiature, soliti giocattoli, niente di che. Dai, riprendete voi, non ne ho voglia io. Claudio, ci sei, sei rientrato. Bisogna motivarvi anche a voi, dai. Marco, perché sei così giù? È un periodo un po' di fiacca, di stanchezza fisica. Sarà il Covid? Il Covid già lo sei tu, andare lì. Sarà sempre con acqua lì. Purtroppo c'è ancora gente che non ci crede. Anche oggi è una giornata grave, sotto l'aspetto. Speriamo bene. A proposito, io sto facendo senza antenna, come mi sentite? Beh, senza antenna. Prova. 1, 2, 3. L'apprezzo mi segna 0,1 watt. Sei basso di radio, ciao Gianfra. Sei basso. E come stai uscendo? Con qualche cacciofito infilato? No, l'antenna è sempre la stessa, la diamante, la potenza che è inferiore a un watt. Però quello che mi sentite? Sì, bassino di radio, ma ti sentiamo. Bassino di radio. Però non va a che va bene. C'è anche il monitor qua. Che segna la regolarità dei punti. E allora, come andiamo? Visto che pioggia? No, scusami, avevo il volume io basso, perché c'è quello che arriva forte e quello che arriva più basso, ma Giulio non si è più fatto sentire. Gli ha squillato quel citofono interno, credo. Quel telefono interno che ha lui. Vedi Marco, adesso tu con la telefono stai parlando con un microfono normale. Sì, sì, il solito 3009, il solito microfono di serie, quello marcato Star. Bellissimo, l'unico problema è che bisogna cambiare il filo col microfono, però anche l'estetica mi piace, esce molto bene, sei superiore a Gianfranco, come stai uscendo di radio, molto superiore. Ehi Gianfra, un po' se puoi alzare appena è cosa buona e giusta, Il segnale o di radio? Radio, il segnale diciamo che è tra un 9.10 e 9.15. Poi io questo Smitter secondo me si è starato un po', già non mi fido di questo Smitter, però mi sembra che dopo il 9 sia diventato un po' troppo generoso, no, vedremo dai. Quello Smitter è secco, dai, ha due segnali in meno, poi diventa troppo generoso di colpo. Sì, praticamente sotto il 9 è drammaticamente, infatti ho dovuto imparare a interpretarlo, no? Facendomi pari col K, no? Però dopo il 9 mi sembra un po' abbondante. Se ne era accorto anche Claudio, no? Di una stazione lontana, diciamo, come fa a arrivarti a te, che ne so, 9.10, quando a me arriva 9.5 o meno? Poi non so se la posizione o se è generoso lo Smitter, io propendo per lo Smitter generoso dopo il 9. E vabbè, l'unico preciso era quello del K. Solo per lo Smitter era da tenere quella radio, ma solo per quello. Ehi, no, già è bella come radio. Ma puoi ascoltare tutto, insomma, ti fa ascoltare anche frequenze radioamatoriali, eccetera. Io con la radio amato ascoltavo tutto. rumoroso come ricevitore già. Rumoroso, anche accordando l'antenna, no? Anche in ricezione guadagnavi magari un punto S. Io sono in una... rumoroso, sono in una zona molto ma molto rumorosa, Gianni. Ti dico solo che quando sono sotto casa con l'antenna veicolare, il baracchino, c'è un QRM fisso a 5, in alcuni apparecchi segna 7. Appena mi allontano dal portone crolla il segnale, sparisce il QRM, capito? È proprio qui in zona. Sì, perché a casa non più di tanto. Poi diciamo che il più silenzioso come apparecchio è questo, il meno rumoroso proprio di ricevitore. Però tutti questi CRT, CQCQ, questi moderni con display, sono abbastanza rumorosetti, chi più chi meno. Chi più chi meno, dai. Ciao. Avanti, Gianfranco, facci sognare. No, anzi, ti faccio disperare. Adesso non ho più potenza, sono a zero. Non so neanche se mi senti. La scheda ha meno di 100 mW, dovrebbe essere 50, 50 mW. Vai, da 3 a 4 come segnale, la radio si sente. Da 3 a 4. Per te, Marco, tu mi senti? Dai, vi saluto Gianni, dai, devo lasciare la frequenza. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Claudio, se ci sia ancora all'ascolto, e ciao Gianfranco che è appena entrato, dai, ci sentiamo. Sentiamo 7 quasi da me o Gianfranco, non so uno da te, perché mi hanno dato i segnaloni oggi e non capisco come mai, visto e considerato che la potenza è sempre quella, per cui vabbè, comunque se poi mi puoi dare un riscontro ti ringrazio. Intanto vi saluto e poi ascolto finale e chiudo. Ok, vai Gianfranco, ciao. Confermo 9-10. Caspita, boh, allora è vero, perché prima non me l'avevo mai dato 9-10. Va bene, ti ringrazio, ciao, chiudo, ciao, ciao Gianni, riprendi. Ciao Giulio, dai, buona carica quando la fai, grazie per il questione. Avanti, Marco. Eia, va, cosa è successo qua? Minchia. Ciao Giulio, buona carica, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Marco, tu mi senti? Sì, sì, ma zero non può essere la potenza, perché se no non arriveresti sempre lì, siamo lì, 9-10, fammelo guardare. E allora se ne sto male. Se ne sto un po' male perché lo strumento preciso segna esattamente, guarda, e siamo a livello di 50.000 esatto. Ma pare strano. Che devo dire? Che prendete voi che attacco una cosetta. Marco, vedo che sei un po' fuori però, Di Gabbo, ma di frequenza? Vedi un po', 1, 2, 3. Io qua non ho strumentazione. 75.48 mi dà del centro totale. Infatti adesso mi sono spostato io un po'. Aspetta, 200 Hz e te ne accorgi? Beh sì, tu te ne accorgi. non sai che non hai dato di stesso, che è così, quindi, vabbè, per i baracchini è normale, non è che siamo granché, per quello che vedo. Vediamo Gianni com'è? Prova! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu sei quasi centrato, sei a 20, a 20, punto 20. K. Marco, si era imballato il microfono stasera, Il PTT stava dando problemi. Ho sentito qualcosa. Ma che è successo qua? Comunque Marco, la radio di Marco è a super norma. Perché se ci... come ampiezza. Sicuro Gianfranco, anche se allora parlo con un voce con un volume normale comunque. Guarda se parlo attaccato, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, 4, 5. Più 5 più 5, quando scatta il bip arriva a figurati a più 10 meno 15. Ma quindi fuori norma? Solo per il bip diciamo che è grosso, ma tutto in confronto sento i bip. gli altri sono tutti quelli di banda, infatti quando vado a controllare con il tubo anche con l'altro ricevitore che ha un'ampiezza enorme come spesso, mi dà il senso di armonica alla grande, si finiscono in 30, si finiscono in 35, a voglia, fino a me. Sì, stavo... Ovviamente si è tutto sballato qua lo strumento ZG. Claudio è rientrato, aspetta. Claudio, ci sei? No, forse al telefono. Ora. Sì, questo strumentaccio ZG si è alterato. Non so nemmeno se funzioni quella funzione sua. Questo è il riduttore di potenza ZG. Guardate gli scarti. Così sono 3 watt. Guardate, abbasso, inizio. Secondo questo ridicolo strumento dovrebbero essere 200 milliwatt, ma non ci credo nemmeno, proprio per niente. Funziona Marco, si è arrivato sino a Santiago 8, da Santiago prova 9. Allora, così è Nature, conta che l'ospezione di cavo e questo aggeggio mi dà già dispersione, guarda, guarda, 1, cioè c'ha 6 posizioni qua. Ecco qua, vedete un po' com'è? Quindi Santiago 8, da Gianfranco quanto? Da me arrivi al minimo al 9, al massimo sei 9, 9, dovrebbe essere un 9,20, perché da qua al 9 poi non prosegue, questa prosegue su una linea rossa, però se dovresti essere 9, 9,20 non sei al massimo, normale. A me da 9,25 arrivi a Santiago 8. Però ho visto, in città passano anche 100 milliwatt, magari ci sono pure 100 milliwatt. Moduli lo stesso, proprio città, sorta di città. Beh, se ti rispettano, sì, ma se ti va a metterne sopra, se mettono portante, cose del genere, la va. E via, in confronto 4 watt mi sembrano un'enormità rispetto a questa potenza qua. Sì, comunque adesso lo rimetto com'è. Questo wattmetraccio, no? Cioè questo apparecchio ne ha 4 massimo in AM, massimo a crepatura. Quale segna 6? 6 abbondante, addirittura sì, 8 modulati, ma vai, tutta robaccia. Questa roba, poi questa roba presa da IEL elettronica già, tutta mezza difettata, che strano. L'HP201 non segna stazionaria, questo segna watt più di quanti ne hai. E tu devi vedere il libretto di, il foglietto di istruzioni di questo affare, ingiallito, magari ce l'avevano da 20 anni. Come minimo, la parte in magazzino. Anzi no, ti dirò, le manopole... sono quelle delle versioni nuove, però non dico 20 anni, ma magari 5 anni ce l'avevano. E anche questo però non... Cioè, secondo me un wattmetro che se ne avete sballati, così sballati. E loro dicono 10% di precisione. Sì, magari. Vabbè, adesso straccio tutto e lo levo. Dai, comunque funziona. Come attenuatore di watt funziona comunque, dai, a parte il wattmetro. Si può tarare il wattmetro? Interrogativo. Hai fatto, non lo so, Marco, dimmi una piscina, non l'hai fatto. Io mi ricordo che a suo tempo avevo visto questo strumento enorme in un negozio di Sassari che faceva modulometro, wattmetro, rosmetro, era grande, quanto, cosa ti posso dire? Grande quanto... 4,40 così, però di lunghezza, poi di profondità no, però di lunghezza rimaneva più stretto, però di lunghezza era così, 4,40. E c'aveva gli strumenti enormi ed era della Midland questo apparecchio, lo porto a casa ed era legato il filo, il cavo elettrico era legato con un elastico, era sciolto l'elastico, sono andato a toglierlo e si è tutto quanto frantumato, deve essere, ce l'aveva a 100 anni, lo attacco, non segnava nulla, non funzionava, ho provato diverse scale, niente da fare, non funzionava per niente. Vabbè, capita. che voi sappiate, avete presente le banane, no? Le banane di alimentazione da collegare all'alimentatore. È mai capitato nella storia che qualche CB inesperto collegasse le banane alle 2:20? Niente sapete. No, che sappia io no. Le bananine sono per i 12 volt, non sono per i 2:20. Se li caduto. No, perché immagino già la scena, cioè bene o male hanno quello spessore tipo quasi tipo i terminali delle spine, no, da 2:20, magari qualcuno è andato a collegarlo ogni azzocco. Oh! In quanta fantasia ne hai molta, te lo immagini come è successo a un CB tanto tempo fa? Che si è addormentato col tasto del microfono pigiato, praticamente il tasto fisso e col lineare attaccato, è esploso, è stato tutta la camera nera, tutta di fuligine, tutto pieno di nero in faccia. All'anima. Sì, comunque già, questo attenuatore, aspetta, era stato usato quella volta dei cosiddetti potenziometri, no? Cioè avevo messo un watt, con l'omologato, un watt già di suo, più l'attenuatore, più il filtro, e quello continuava a chiamare, quindi era uno scherzo. Ci scommetto le palle. Ma comunque Marco, se tu hai quell'attenuatore non c'è bisogno di abbassare il watt dall'interno dell'apparecchio. Se tu usi l'attenuatore e poi li metti un lineare per da 200 non dovrebbe distorcere, così è. Sì, praticamente questo era fatto almeno per quegli apparecchi che avevano potenza fissa, tipo il Jackson, il vecchio President Jackson, mi pare fosse 10 watt m, però quello lì poco lo nego, magari era aumentato, insomma, quelli che non avevano potenza regolabile, tu lo interponevi tra il baracchino e il lineare, li riducevi la potenza a quanto la volevi tu e quindi non saturavi, sì, il suo scopo era quello. Oppure semplicemente con un baracchino come può essere questo, 4 watt fisso, io adesso ho messo tutto al minimo, credo sia sì nell'ordine di 100-200 mW, non ne ho idea, qua tanto quello che segna è tutto il ballato. Ok, riprendi Gianfranco. Purtroppo non sono solo tribuloni per misurare, non so come trascinare, sono al limite solo indicativi, già 10% non so comunque. Io adesso provo a aumentare, vediamo cosa succede. Allora, tra, qua c'è una specie di manovella, si tira pure il rumore, tra, è andata un pochino adesso, vero? Lo vedo dagli strumenti. Tra 9:20 e 9:25, prendila per buona. La radio è lenta. Beh, non me ne accorgo io, no? Non ho l'orecchio fino, non sono abbastanza allenato, dai. Volevo provare a mettere le cuffie uno di questi giorni e provare come mi trovo. So che siamo sempre lì, magari uno ha l'omologato, l'altro ha la modulazione potente, quindi devi stare alto e basso e siamo lì. Anzi, in cuffie fa ancora più male. Faccio sordo. Ah, Claudio, guarda com'è. Stavi seguendo il discorso qua? Non era il telefono, raga, mi hanno mollato adesso, era mio fratello. Infatti mi sto preparando per portare il cane, sono già alle 8:25 passate. Come stavate parlando? Guarda il segnale, Cla. Se è successo qualcosa da te. No, sempre uguale, perché? No, stavo usando l'attenuatore ZG. Guarda bene, guarda, così è il minimo. Qua mi dice tipo 200 mW, però poi e così è normale. Il cazzo c'è cambia, da 9:10 a 9:10 scendi. Sì, praticamente sto uscendo quando lo metto così tipo 100-200 milliwatt, non... è tutto sballato il wattmetro, non te lo so dire, però è così, dai. E così sei 9-10, quando lo metti normale esce il tuo segnale, 9-30. Ok, vabbè, sta, no, perché appunto l'avevo messo al minimo e non cambiava, ho detto che è strano, che no, da loro cambia. Pensa che a Gianni li scendo a Santiago 8. No, a me 9-10 scende, 9-30, 9-10 scende un bel. Riga, beh sì, infatti, appunto, perciò. Vabbè, adesso lo tolgo, dai, straccio tutto e anche questo è un calzonetto, forza. Vai Gianni. Tu potresti dire che c'è lineare, fai il coso inverso, invece che diminuire aumenti, c'è mia, adesso con 100 watt, tu dico 200. Ehi, però ricordati quella volta che t'avevo detto, no? I potenziometri, cioè si vedeva che era uno scherzo, dai. Ehi, saranno quei ragazzi del bar, quindi del bar che ci dico. Ehi, ehi, qui perdi tempo. Sì, sì, sì. E vabbè. Ma io te l'ho detto sicuramente uno scherzo. Non penso che fosse una persona che davvero... Forse volevano farti qualche scherzo e a metà io gli facevo uno scherzo a mano. E beh, quando si bivacca non si sa come passare il tempo. E si annoiano. Bene, bene. Mi prendete, straccio tutto, faccio questa della Jake, dai. Ma dopo. Kappa. Straccia, straccia, già va bene, potenziometri, in capo per la via il potenziometri, aggiungo il potenziometri, vabbè, oia, oia, va bene, va bene, comunque già scende anche qua, dai, da 9.30 a 9.10, non ho capito cos'è, un attenuatore di trasmissione, di potenza, cos'è, boh. Sì, c'ha più scatti, serviva praticamente a regolare la potenza, soprattutto per pilotare i lineari, in quegli apparecchi che magari ci avevano, che so, 10 watt e non avevano la manopola per abbassare i watt. Capito? E c'ha 6 posizioni, questa è la più bassa, tipo la 1, no, la 6 è la più bassa, la 5, eccetera, eccetera. Dai, adesso ti mando, te lo faccio vedere comunque, con la cronaca. Sì, cosa mi fai vedere? Se non c'ho WhatsApp, cosa mi fai vedere? Ci vediamo che domani me lo attivino, cazzo. Mi manda praticamente BB, cioè il coso, chissà quando l'accendo, tanti minnaggi va a baidare. Cioè quando me lo riattivano. Mi arriva il segnale ma non me lo fa vedere internet, capito? Vabbè, domani vediamo se me lo attivano, me l'ho detto domani. Pensavo oggi, invece me l'ho detto domani, vabbè, non cambia niente, già non siamo nati con internet. Vai già. Ehi, dai, passatempo, dai. Passatempo, quando lo accendi c'è il passatempo. E ti guardi che ti messaggi. Non ti tengo, BB, già rimane in Kiwi. Mi dà anche il numero dei messaggi ricevuti, mi va bene già una guidizzina. E vabbè, poi quando me l'attivo non me li guardo, a vedere risponderò a chi devo rispondere. Va bene, va bene. Ottimo per la truppa. Comunque, tornando ai video già, all'MB più 5, hai visto cosa faceva a me? A me mi interrompeva la comunicazione, ti ricordi? Un po' era... non mi ricordo cosa succedeva. E gli ho spruzzato lo stesso lo spray e ha funzionato per un po'. E poi di nuovo, l'ho riaperto e praticamente quella plastica che spinge, dove c'è il PTT che spinge quel coso che... quel pulsantino cos'è per fare uscire la portante, non faceva tutta la corsa, l'ho dovuto appena appena limare, quello è un difetto di fabbrica, microfono nuovo, l'ho dovuto appena appena limare, non con la limettina delle unghie, piano piano, per non fare danno, e ho tolto quella babbatura che c'era, e adesso è perfetto. Sì, ma l'avevi detto che era quello lì. Vabbè, ma solitamente sono i PTT che vogliono, basta spruzzare un po' d'aria o lo buffi a fiato. Io non c'avevo l'aria, l'avevo finita, l'ho soffiato col fiato. e poi basta mettergli un po' di CRC. Io non gliene metto per contatti, perché il CRC rimane oleoso e non lascia umidificato bene, capito? Lo spray si secca. Sì, infatti, no, ma questa non è una questione di spray, non c'è, l'ho detto, non voglio nuovo. Infatti un difetto di fabbrica, non mi faceva fare il fine corsa, se lo pigiavo forte, allora funzionava bene. Se invece lo tenevo normale, leggero, no? Come appoggi il dito a un semplice PTT, non usciva di radio, perché non arrivava a spingere tutto il coso, capito? E allora l'ho limato appena appena, perché si vede che è un difetto di fabbrica, perché è prefuso a quella plastica che spinge. L'ho limato appena appena con la lima delle unghie, perfetto. L'ho richiuso, non si vede neanche, c'è un difetto di fabbrica. E va bene, ok. Comunque, niente, dai. Adesso ci prepariamo, andiamo a portare il cane. Mi copro bene, cazzo, col berrettino, avevo un freddo già, copriti, mi si riesce a portare il cane, perché c'era cancarasci, mi vai invece a desegrati. No, io già c'ho il giubbotto che non passa né acqua né aria. C'ho il cappuccio, mi poi con un cappuccio si fa freddo e via, è fatto un yuppo. Oh, scusa, ho lasciato più aperto. No, ma se no che subito, infatti io ho messo il pane pietra per quello. Perché c'ha il lock col pulsante qualcosa, no? Invece quello lo devi spostare col dito, che cagata che hanno fatto, cazzo, bastava fare un interruttore sopra, c'è lo spazio, una farina a abbassare, come il 3+3, no, invece ne va tutta la goja a fare scivolare a destra, a volte aggancia, poi si aggancia, dice a mezz'ora bugando il nido. Riprendi Marco, che telefono a Marco, mio figlio. Ehi, se non vi rispondo io mi sto preparando, mi sto preparando che così vado a portare il cane. Ok, già sono qua. Ehi a Gianni, dai. Cosa? Marco? Devi cambiare telefono? Sì, già fatto. Sto aspettando solo che mi attivino la linea. Che operatore c'è? Ah no, la linea hai cambiato anche scheda per caso, operatore. Mi pare che quando è che l'hai detto ieri che ti facevano pagare un bel alla Vodafone, guarda che sono dei ladri alla Vodafone, stanno sempre aumentando, aggiungendo cavolate, hanno richieste, segreterie, io e mi ti richiamo, ti ritrombo. Ciao Lugarie. No, io ho la TIM, con la TIM 14.95, ci ho rotto le palle, 15 anni c'ero, mi dispiace però, ho cambiato compagnia, Windy 3, c'ho anche il computer così, con la Windy 3 e vabbè, c'ho tutta la compagnia, vabbè, dai che mi preparo, se no si fa tardi, che già almeno un quarto devo portare il cane, ok? Ci sentiamo dopo ragazzi, vai Lucarie. Via, ciao Clark, a tagliarsi sul computer va a rompati, questo ragazzo l'ha pigliato. Beh, so se è paccata a buon, si è rotta anche la macchina, cioè, sicuramente c'è altro coso dal cambio, oggi sono andata di merda. Ma si è rotta la macchina? Si è sganciato da sotto, ma ormai c'è un amico meccanico in gamma, guardate in gamma, lì a coso, come si chiama? La mia è paccata sul computer, non accumare. Attraverso via Milano, lì, via, come si chiama? I giardini a... Ma non mi viene, piazza... Via Venezia, bravo. Si è sganciato, non avevamo più le marce già, capito? È rimasta in terza, un po' di frizione, si è un po' bruciacchiata. Tu conta la carica fino a su. La farfalla ti sei staccata. La farfalla della leva del cambio ti sei staccata, noi niente. È successo anche a me, sono tornato da Platanona in seconda. Ogni tanto mi fermavo e poi ripartivo. E ce l'ho fatta sì la sassa, ed era scaldata la macchina, ma non me ne ha più lungo. Ciao Lu. Sì, ciao Marco, tu conta che avevamo anche il cofano pieno d'acqua. A me è successo di peggio. Al sottopassaggio di Santa Maria, salendo, con la vecchia Fiat Uno, mi è rimasto il cambio della Uno in mano. Per stress del metallo, proprio alla base della leva del cambio, si è rotta ed ero in prima, sono dovuto tornare a casa in prima. Piano piano, perché sennò mi fondeva pure, mi bolliva il radiatore. Un casino. E tu conta che a Maria le saltavano le marce, un giorno gli ha scoppiato il tubo dell'acqua, un casino con la macchina, va troppo soldi si sta spendendo, poi ha fatto la frizione, i dischi nuovi, pastiglie nuove, un casino, come nuove, una spesa, la macchina è una spesa enorme, quando c'è danno, guarda, è allucinante. Lu, così ho fatto io con la mia, le ho cambiate tutti i freni di davanti e di dietro, i tamburi di dietro, i freni davanti, e poi le ho messe tutte e quattro le gomme nuove, e poi cosa gli ho fatto? Ah, la bobina nuova, tutto quanto, poi mi è venuto lo scrivimento e me l'ho regalata praticamente. Cioè l'ho data alla persona che non si poteva permettere di comprarsi la macchina, doveva viaggiare da via Milano, doveva andare a prendere il pullman e via Brugamento via 25 aprile lì, tutta a piedi perché l'avevamo a 8 ottobre, e quindi ho detto se la vuoi te la do, guarda, mi dà una cifra simbolica, ti fai passare di proprietà e via, e glielo dà. Vabbè. Purtroppo non si può permettere un'altra macchina, se ne tenere quella, cosa vuoi fare? Però io a lì gliel'ho detto, guarda che non è una cazzata, ma è proprio il distruggio di accendere un carro attrezzi, siccome lì è il carro attrezzi nell'assicurazione, no? Tutto pagato. Aspetta un attimo, facciamo un salto, facciamo una spesa, c'erano anche surgelati, adesso saliamo un attimino e lo facciamo, pazienza, perdiamo un po' di tempo. E infatti mi ha sgommato un po' la frizione, perché essendo in testa devi un po' sfrizionare lì a Santa Maria. Infatti un impiego di frizione bruciata già. E vabbè, fatica il motore, se prendi le salite e cose fatica il motore, se non gli dai le marce basse e poi quelle altre. È un po' lo spunto fatti. E dai, comunque abbiamo risolto, dai, sennò dovrei fare domani chiamare il carro attrezzi, portarlo lassù, come buona gazzata. Cioè il carro attrezzi sprecato alla fine, perché ci ha messo di orologio 5 minuti, tra metterla sopra il ponte, staccare un tappo in plastica, mettere un pezzo di fil di ferro per bloccare questo coso. Poi gli ha messo questo silicone che ci diventa un coso, diventa cemento, e così non si stacca più. Poi se lo devi cambiare vuole un casino. Vabbè, a me me l'hanno fatto, non so quanto ci hanno messo per farlo, siccome era in garanzia la macchina, Alfa Romeo, da Cabirulli, come si chiamava quello che aveva il carro attrezzi, uno di Xinaus, l'avevo preso da loro, all'Alfa Romeo, l'avevo preso a seconda mano e praticamente ho subito problemi di batteria, sono tornato indietro. E mi ha detto, quella lì te la devi cambiare tu perché non è in garanzia la batteria. Vabbè, mangiamo della batteria, dopo mi si è staccato quella affare. E l'ho portata sera tutta, quasi un mese per farla. E il meccanico mi ha detto, guarda, sarà lavoro di 5 minuti. Per lui per far scadere la garanzia è un bastardo, vai. Già, ripeto, per avere una macchina è una spesa, ma non che uno se la usa ogni morte di pappa, allora va bene, ma poi c'è l'assicurazione, sempre, è una spesa grande. La macchina vuole mantenuta, quello si sa, specialmente quando si rompono i pitti, costano una barca di soldi in pista, adesso non costano più come prima, ma qui c'è un bel... specialmente se è macchina estera, costa un bel... già costa la Fiat un bel... A me per dire il cassettino me l'hanno cambiato perché sono andati a regolare una cosa, hanno dovuto smontare il cassetto e poi non mi funzionava la morra, sono tornato indietro e ho detto no, il cassetto non era così. Hanno preso e me l'hanno rovinato nuovo e me l'hanno sostituito. Gratis? Sì, manco una lira ho pagato. Me l'hanno rotto loro. Hanno smontato il cassetto, sicuramente smontandolo hanno rotto il coso della molla che lo faceva chiudere, capito? Purtroppo le macchine si costano care, non è tanto comprarla la macchina, poi mantenita, se si rompe un pizzo costano sempre i soldi. Certe macchine si rompe il turbo, costa una marca di soldi, non conviene nemmeno più appuntata, secondo cos'è la macchina, quanto costa tutto qua. Certo, e ne ha speso comunque i soldi, ne ha speso un sacco. Ne ha speso un sacco su quella macchina, purtroppo già serve per andare a lavoro, poi ai genitori campagna, li porta la spesa, capito? Li accompagna a fare la spesa, che loro sono a piedi, il padre non guida più, gli hanno preso la patente, ormai non guida più, perché se no gli bloccavano la pensione. Lo so, perché mi pare che anche al bufo le l'avevano preso, perché per l'invalidità che aveva le hanno preso la pensione, infatti l'ha dovuta la figlia la macchina nuova. Aspetta un attimo, ma se c'è un marino. Non c'è rimasto nessun altro. C'è una stazione bassa che chiama da lontano, molto lontano. C'è Gianfranco, mi pare che sta chiamando. Avanti sul canale 10. Avanti sul canale 10. Riprendi mano. Ma deve essere propagazione già, sento come vocine, rumori, poi questo un po' più di correm me lo prende, anche se metto quelle dei feghini, quel trucchetto che ti avevo detto. Gianfranco, questa emissione all'analizzatore come risulta? Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, sei abbastanza contenuto, diciamo. Più 5, meno 5, destra più 5, sinistra meno 5, quindi ci va bene. Va bene. Complimenti per il B. Il B per presidente, sembra un PMR, sembra. Parlare della pulizia. Oh, yeah. Il bello era il Puxing, col portatile Puxing che aveva le tra quelle selettive CCR, Zway 1, 2, non mi ricordo. Però non usciva di radio, non usciva di radio, proprio fatto male di fabbrica. Bisognava togliere una micro resistenza SMD, mi pare. Cioè, chi è talmente perverso da mettere in commercio, costruire, progettare, mettere in commercio un apparecchio che esce con un filo di modulazione, no? Uno di quei tipi di apparecchio. Boh. E sai che me l'ho preso anche io col freezer, mi piace. E l'unica cosa che mi blocca, lo sai cos'è, ma quell'attacco del microfono che non mi piace. E quale intendi tu? Quello che stai usando tu adesso. Quello piccolino. E l'attacco è a 6 poli, ti devi fare l'attrattore da 6 poli, no? Sempre con la ghiera però, a vite, sempre di metallo, no? Non è con l'RG, capiamoci. Ma io sono andato a vedere, c'aveva l'attacco tipo quello della Telecom, per intenderci. Marco, ma qual è il Mac Finlay, una cosa del genere? Quello è bello come bip, vedi? Molto bello, bei tempi. Sì, McKinley, poco già fa. Ma tu questo che stai usando adesso, quale? Che modello è? L'unico presidente, McKinley. Quello c'ha l'attacco a sì. Sì, normale spinotto metallico, tondo a 6 poli. Al limite uno si deve fare l'adattatore da 6 a 4, vabbè, purtroppo. Ma io perché non uso mai l'MB più 5 o l'M95 da palmo? Tanto mi, lì c'hai 4 poli, lì ne hai 6, lì ne hai 7, l'altro c'ha l'RG45, quindi dovrei farmi 10.000 adattatori, non ne vale la pena, no? No, io ce li ho quasi tutti con lo stesso attacco, tranne la stazione base, quella della come si chiama, della Intec, che mi sa che me la prendo questa stazione, ce la vuole qualcuno, 120 euro la sto vendendo. Ma quale? Il 497 o altro? Il 496. Oh Gianni! Oh, casco, non è che ti è rimasto un LED blu per caso di quelli che abbiamo piazzato noi? Ma lo so, Luce, ma non avevi bruciato? No, mancuno. Mancuno se ne è bruciato. Può darsi di sì, allora, devo cercare. Saranno nella scatola dove li ho lasciati. Lampadine sì, qualcuna se ne è bruciata. La lampadine quando stavamo piantando, che non ti piaceva perché erano troppo basse. Allora abbiamo messo i LED, se ti ricordi bene. Vabbè, se ce l'hai, perché le stavo cercando su internet, ma catene di miglia, me ne esibì una, no, 50 miglia. Poi, quelle vanno bene, sai perché? Perché sono piccole, e via. iPhone 2. Chiaro. Dove è più carino, là? È un giorno che mi metto, che non devo fare niente, mi assiglio, non lo faccio. Cazzo, ho preso l'opina che mi serviva per aprire i telefoni, cioè per aprire i telefoni, per quando lo scaldo, no? Io lo punto nel tappo perché lo sollevo come ho fatto al tuo, ovviamente. Provo che lo scaldi ai bordi, praticamente poi lo sollevi con la ventosa e poi gli passi il coltellino per operare e ne sarà giù. Passa domani, te lo cerco domani mattina e ce l'ho. E passo, capisci già. Forse dovrò passare magari sabato. Vediamo. Non c'è problema, te la cerco adesso. Se capita a me di uscire te la passo io, ma non lo so se domani devo uscire, capito? Perché devo aspettare un pacco, quindi io non so se esco. È meglio che non esca, se no magari viene quando non ci sono io. Domani quanto ne abbiamo? Domani, allora oggi è 16 domani. Non ti preoccupare già, noi ci facciamo un salto sabato. Ci sentiamo, se ci sei, bene, sono pazienza. Va bene, non c'è problema, io te lo cerco dietro. Un attimo, già sono al telefono. Oh dai, io vi saluto tutti cordialmente e sto andando a portare il cane, mi sono dimenticato che questo qui è drumito, quello se come vediamo i cucati si tocca e si droga, e quindi non se ne manca accorto, ma sta manco buguniano. Vai già, copriti che c'è freddo, io sono già rientrato, ciao, a dopo, se coincide siamo domani, ciao. Ciao, ci sentiamo, no, io non riaccendo, buona serata, vi guardo il televisore. E altrettanto ti dico, oggi muoio da freddo, no, che ciao. Ciao Gianni, ciao. Puro freddo, cazzo che so, ma che cosa? Mettici cose, un'andropausa. E va giù, tu sei menopausa. Andropausa, menopausa, vera la femmina. E che tu non sei una femmina. Latinetti. No, ma vabbè, c'ho caldo, ero un po' di nervoso, cazzo, claro, tu cazzo di macchina, uff, mamma mia, va. Poi, sai come sono fatte le donne, no? Sempre al contrario pensano loro. Ma se io ti dico che è una cazzata, andiamo, pazienza, siamo in testa, sentiamo un po' di frizione bruciata, ma chi se ne frega, non mi interessa. Ma io sicuro che è una cazzata, appunto. No, che si schia, io insisto, prima ci ha dato le balle, va. Ah, ma come così non ti preoccupare, c'è un perno sotto la leva delle marce, no? Una farfalla la chiamano, che aggancia praticamente la leva che è agganciata sopra il coso del cambio, il perno del cambio proprio, dove entrano le marce. E quello si può staccare, va coglionato. Lo riagganci o lo metti nuovo, le metti una cupiglia e no, non succede niente, non è un danno quello. E se tutti gli anni voi siete riusciti, lo danno è successo a me che mi si è bruciata la centralina, la 147, lì c'è danno. Lo so, un consiglio voglio, allora, ti spiego. Ti faccio un esempio, no? Come diceva un mio amico, ok, no, siamo presi di vista, fai delle vendite, prima ti metti a vendere tutte, magliette, che ballacche. Solo che tu vuoi l'anticipo per fare l'ordine e mi chiedi, ho dato 50 euro un esempio, no? E ti carico la postpay. Poi mi dici, una settimana massimo, fai 10 giorni e ti consegno quello che ho ordinato. Sono passati già 2 mesi, io questa ragazza la conosco da qualche anno, siamo presi di vista a metà Olbia, c'ho il suo numero, c'ho il suo Facebook, cazzo 2 mesi, gli ho fatto una ricarica da 35 euro, cazzo ti ricarico a fine settimana, cioè all'inizio di questa settimana, mi devo caricare lunedì, martedì, rimborsarmi i soldi, perché i soldi, le scarpe, dice che non so cosa è successo, poco vi credo, sai che ti ha fottito, cosa mi consigli di fare, Cla? Se lei ce l'ha potuto fare la segnalazione, perché l'ha fatto a te e c'è un amico, e ce l'ha fatto anche ad altre persone. Ma cosa mi consigli di fare? La segnalazione fai dove c'è la PostePay, non so come funzioni, comunque tu già lo sai, fai la segnalazione perché ce l'ha fatto a te e l'ha fatto anche ad altre persone, non va bene, è truffa chi c'è. Cioè, cazzo, no, ci sta stato in culo, cioè, non è che ci guadagnano un po' lunedì fermo, sono un paio di giorni fermo, ci sono giorni che vai, 35, 40, 50, dipende, ma sono già un paio di giorni fermo. Se permetti, a chi regalarli a te? Non regalarli a te, regalo alla Iesia. Anche no. No, ma fai la segnalazione, dottor, da amico. Mi ha baciato lei, ma in tempo gli ho fatto. E asciuga. In tempo ho fatto. E gli ho detto a Gianni, mica sta per piovere. Fai la segnalazione, cosa c'ha la Poste Pay? Fai la segnalazione e le dici appunto che tu già da 2 mesi hai fatto questa ricarica con questo numero e ancora non ti è arrivato il materiale. Cosa devo fare? Insomma, questa qua vende roba contraffatta, capito? Ho preso un paio di scarpe. Cazzo, c'era un 27 che aveva giù caricata, 27 di settembre. Siamo quasi a novembre. Tu qua sono andato con Ilaria, dovevo ritirare roba a Città Mercato. Capito? Siamo entrati dal Globo e siccome io ho le altre, ho la Diadora, no? Le scarpe da piedi, ho la Diadora, ho detto mi prendo le Transmit. Però il prezzo era ancora troppo alto. Cazzo, ho comprato le Ricocoveri, come le Transmit, belle, bellissime, Oseganto, 30 euro, 29,90. Ho capito. Vabbè. Ma siccome a sta cosa mi è venuto il dubbio, no? Ho detto, ascolta, ce l'hai, visto che tu vendi queste cose qua, se ce l'avevi le Superstar, le Adidas Superstar, quelle bianche che ho io, però quelle le Superstar che hanno la punta rigata, diciamo, no? E mi fa, mandami una foto così per vedere. Ci mando una foto, siccome le ho viste anche su eBay e costano intorno ai 70 così, e lei mi ha fatto il prezzo di 35 euro. Io mi ha già fiaccata amica, ma comunque vabbè, mi sono fiato perché la conoscevo. Infatti cosa, 35 più 2 sono 37 euro. C'ho tutto io, c'ho anche la chattata su Messenger di quello che mi ha chiesto lei. Non mi piacciono queste cose, io non l'ho mai fatta, là. Allora, se dovesse capitare, faccio un altro esempio, che tu magari vuoi riparare un telefono, no? Mi dai i soldi, io acquisto il display. Questo display non mi arriva, ci devo rimettere io di tasca. Ma non metto i buoni da faccia io a chi devo dare 50 euro a Claudio, o 60 euro. Purtroppo devo fare un sacrificio e poi mi arrangerò io col venditore, farò di tutto, ma a parte non li perdo perché pago con la PayPal. Però ci devo sempre rimettere io di tasca. Io, se questo prezzo non arriva io a Claudio, devo durare di là, fai forza. È così, e lei fa la stessa cosa. E lui, ma se lei sta tardando, non lo sta facendo, vega che cosa so tu, quindi ti conviene fare la segnalazione, capito? Perché, ti ripeto, l'ha fatto a te, ma se l'ha fatto anche ad altre persone, tu cosa lì? Guarda, le Transmit costavano 62 euro e le Superstar costavano 72 euro da Globo, in offerta però, ci sono gli sconti, perché quelle che ho comprato io costavano 70 euro e le ho pagate la metà, 50% di sconto, 30 euro praticamente. Capito? Quindi, alla fin fine conviene comprare i noghi, tanto ci sono ancora i saldi, ci sono i saldi prolungati per questo problema del Covid, capito? Quindi non c'è problema. Tu cosa ti posso consigliare? Io avevo fatto la segnalazione, gli avrei fatto un ultimo messaggio, l'avrei mandato e ti ascolta, o questa settimana mi mandi i soldi o io ti segnalo la postale, poi arrangiati. Intendi, Cla, pronto, sì. Ciao, Lupazzoccio di Sassari, di stimolo e di coraggio. Ciao! E allora, Gemellaggio, invita pure due tuoi amici a fare come te, a seguirmi su Fiume della Medusa, underscore, Fortica. Se lo farai, sarà felice. Ciao, Lupazzoccio. Ciao! Come te, Ventosa, quello di Canale 5, sì. Sì, e come fa a dire queste cose? Se qualcuno gliel'ha detto. Ho capito, ma dov'è, perché? Io sono messo su Facebook. Yes. Vabbè Lugarie, dai che vado a cenare. Ci sentiamo se ci sei dopo, altrimenti a domani. Fai quello che ti ho detto. Prendi i provvedimenti, perché se no Giccia continua a fare i cigribiati. Vabbè, segnalare non lo posso segnalare, posso fare la denuncia in questura. La segnalazione, eccetera, la segnalazione è sempre una cosa scritta, no? Quindi o in questura o la postale, non lo so come funziona, però falle la segnalazione, perché che tu hai pagato, l'hai ricevuta, e non hai ricevuto la merce, quindi. Vai, tranquillo, ma ormai facciamo un mal di testa. Mi sto trasferendo la testa poco fa, per carità, ma ormai mi è passato. Va bene, dai, sentiamo. Sentiamo dopo, io sono già sulla casa della mamma, dai. Ricreazionale. Guarda che la forzante, quella forzante. Un tipo di oristano, eh. Quella fissa. Questo è l'oristano. Mi abbai l'oristano, mi abbai. Tac, ci vado. Non mi piace manco ascoltare io a me. Una volta è entrato, capo, non era questa la frequenza, era diversa, non era questa, sempre questa è stata. No, era l'altra, questa è linkata con Villano con Monteleone, prima era 431-900, mi sa. Ma per citare il ponte come si fa, Cla? Non penso che lo eciti con 431-237.5, non credo. Sì, io già lo eccito, ma ci vuole il tono, tu non ce li hai i toni, ci vuole il tono per eccitare. Oramai tutti i punti hanno messo i toni, proprio per evitare che la gente entrasse così a disturbare, capito? Soprattutto chi non è radioamatore. Capito? Quindi ci sono i toni, ci sono gli accessi, noi che lo sappiamo quali sono i toni entriamo perché siamo patentati, gli altri no. Più lo shift a 1 MHz sei più in alto, giusto? Sì, è certo, più 5.000. 5.000, no 1,6, Claudio, guarda bene. No, tutti i punti li abbiamo messi a più 5.000, ce l'avete nel QSO. No, ma non per me, io non accedo ai cosi, ma allora è cosa nuova, è una novità questa. Io già da qualche anno, più 5.000, più 5.000. Sono più 5.000, infatti molte radio non lo fanno, è che tenevamo le balle piene, tutti i santi giorni disturbavano, alla fine le sezioni hanno deciso così e così è stato fatto. Sì, vabbè, però sì, vedo comunque ci sono radio vecchie che addirittura non avevano nemmeno i subtoni, erano opzionali, dovevi comprare il moduletto opzionale, era una cosa più. Una volta c'era il vecchio tono 1750, ma è roba della preistoria quello ormai. Vabbè, ma col tono 1750 non fai nulla. Oramai è in Google più 600 con il tono. Cioè meno 600 col tono e in UHF più 5.000 più il tono. Oh Cla, ieri avevi parlato di quell'amico che ha tarato le valvole, ma guarda che forse era entrato in 27 mesi. Pittore è un radiatore molto molto vecchio, ti ricordi che entrava anche con Roberto tipo sul 10 o dintorni? C'è lui, Ehi, ma non ho detto il nome, già è lui, non ho detto il nome perché non voleva dire niente, capito? Perché gli avevano già chiesto e non gli ha dato. Era bravo, non di nulla, già è quello lì comunque. Ok. Come gli avevano chiesto e non gli ha dato, capito? Io so che sono molto amico di Roberto, ma anche con lui ci conosciamo tanti anni. Mi ha sentito perché stava ascoltando, che stava finendo di fare un quadro e mi ha chiamato e mi ha detto, ma chi va, sai chi ha questa cosa che ti interessa, scontato lanciato. E quindi sono passato e me li ha dati 9-9, ho lasciato la mia una bestia al DAC, adesso una bestia, come ricezione, come trasmissione una bestia, non c'era né ricezione né trasmissione, il 10% c'era, capito? Adesso da 50 watt in AM e 100 in SSB. Vabbè ragazzi, io vi saluto, vi abbraccio, vi stiro, vi ammiro, come dice il Capitano Ventoso, e vado a mangiare che va giù fame, ciao! E faccio giù di Sassari! E faccio giù di Sassari, ciao! Ciao, grazie! Io adesso sono qua in ascolto, dai! Marco, mangi cenare, è andato, Marco! Ehi, ciao Claudio, dai, sentiamo. Ehi, mi ha buriato anche lo stomaco, è un periodo strano. Ah, ma dicevi Luca, ma c'è Capitan Ventoso a Sassari, ho capito male io? No, dice queste cose, no? Lo faccio giù di Sassari. Aspetta un attimino, Marco. Oh, devo comprare altro BPL, cazzo, devo fare uno spezzone. Marco, ma poco fa stavate parlando di cifre radio o di toni? Cifre radio. No, abbiamo accennato Ponte Cisa, lo shift per l'accesso, io ero rimasto a 1 più 1,6 che poi invece chi riceve riceve solo l'uscita, giustamente. E... però Claudio ha detto che almeno in UHF hanno cambiato qualcosa, tipo più 5, vabbè. Non lo so, io non, tanto io ascolto sempre solo uscita a ponti, ovvio, no? In ingresso non, molti sono da fuori, località remote non arrivano. No, no, perché ho sentito questo 5000 che non capivo cos'era, 5000 kHz probabilmente, perché lo cifre 1,6 su tutti i ponti. Alcuni per motivi di cavità stanno utilizzando i 5 mega di differenza, che ovviamente sono più comodi, le cavità sono più semplici, però insomma sono tollerati, dai, perché cadono in banda satellitare, tutto lì. Invece per la roba civile era, aspetta, com'era, più 4, no, meno 4,6 e più 10, meno 10, vabbè, ci siamo capiti. Come mai tanta differenza dalla banda amatoriale alla banda civile? Ma usano potenze più elevate, hanno necessità di eliminare interferenze, non lo so, vabbè, è una scelta a caso oppure è una scelta comandata, diciamo, Gianfra? No, non è comandata, è una scelta di standard, tipo lì. Sono a 10 perché le cavità sono più semplici in UHF e quindi 10 mega per quel tipo di apparati lì professionali che hanno sensibilità fortissima e quindi non dà fastidio, mentre invece in UHF sono 4.6 ed è lo scritto civile, questo è... sì. Sì, molto più distante, no? Molto più ricezione e trasmissione, molto più distanziate, dai. Va bene, credo non ci sia rimasto più nessuno, Luca ci è rimasto, se ne ha voglia di riprendere, io sto cominciando a perdere colpi, adesso mi attacco alla TV, mi addormenterò in poltrona, lo so già, poi mi sveglio come sempre alle 3, alle 2, alle 3, poi non dormo più, capito, notte in bianco, così è sto ciclo strano. Luca, riprendi. Come ti ho detto, io sono qua. Sono qua. Ciao a Gianfranco anche. Insomma, avevo un mal di testa terribile. Allora, mi sono mangiato una frutta. Mi sono preso un Okitask. E un po' mi ho calmato. Però se ho mal di testa, non ci riesco a mangiare. Infatti un po' mi è rimasto. Dai, io sono ancora qua. Se c'è qualcuno, c'ho pazienza. Dai, rimane acceso. Poi, a una certa ora, spengo tutto. Mi guardo la TV e me ne sto... Sì, anch'io, cioè di sera, di notte, non credo che entri più nessuno, io raramente ascolto la notte, ma non, salvo rari casi, non c'è, poi sta entrando poco anche Antonello Pomponio, perché c'ha da fare lì in casa, dai, diciamo. Oh, Antonio Bombolo. Buonasera, buonasera a tutti. E caffè fa bisogno di nocchi. Luca Dal Monte, io nominativo tuo, manicomio, non mi piace dirlo, vabbè. Luca Dal Monte, Gianfranco, Claudio ha forse chiuso, boh. Il doppio room, non so se è rientrato dal cane da là. Buonasera a tutti, buonasera circolare a tutti. Questi giorni era indaffarato. Era indaffarato tra una cosa e l'altra. Da voi aveva già cominciato la primarina a contendere l'antenna della televisione che c'era problemi, ho scoperto che cosa era. Poi è cominciato con un'altra cosa. E quindi ho lasciato un pochettino la radio. Ogni tanto è bene staccare, dai. Se no diventa una dipendenza, non è più un hobby, Anto. C'è ragione anche tu. Dai, rilancio Gianfranco e vado a bere. E non solo, cambio la colle olive pure. Capa! Va bene, vai Gianfranco! Vado però, vi saluto perché anche per me non mi era accorto che erano già le 8:15 qua. Buona serata a tutti e alle prossime, ciao ciao! Ciao! ciao, ci sentiamo alle prossimine. K. Luca, ci sei? Forse anche lui sta preparando qualcosa, eccetera. Sì, purtroppo poi a quest'ora chiudono tutti.